23 marzo 1944, Roma, ore 16, via Rasella. Esplode un ordigno ad opera dei partigiani dei gruppi d'azione patriottica delle brigate Garibaldi. L'esplosione uccise 32 uomini della 11ª compagnia del 3° battaglione del Polizei Regiment Bozen, una delle branche delle SS a Roma. Per ritorsione venne deciso che per ogni nazista morto sarebbero stati uccisi 10 italiani. Sono queste le premesse dell'eccidio delle fosse ardeatine, di cui il 24 marzo scorso si è celebrato il 63° anniversario. Le persone uccise per rappresaglia furono ben 325 ed il massacro fu organizzato ed eseguito da Herbert Kepler, all'epoca ufficiale dell'SS e comandante della polizia tedesca a Roma. Un anniversario, quello dell'eccidio delle fosse ardeatine, passato sotto il silenzio mediatico, anche per la coincidenza dei 50 anni del Trattato di Roma, la nascita dell'embrione politico dell'Europa. A Massimo Rendina, ex partigiano e presidente dell'Ampi Romano, abbiamo chiesto di ricordarci i significati di quel massacro, simbolo dell'occupazione nazista in Italia. Se la memoria va a quell'evento così tragico e terribile che fu una vendetta da parte delle truppe naziste con la collaborazione fascista, se la memoria va a quel momento c'è anche da pensare all'oggi. Credo che questo fatto quest'anno doveva essere così rievocato proprio alla luce degli avvenimenti, il che avviene nel mondo, cioè i morti delle ardeatine come tanti morti delle stragi naziste sono un monito verso la pace, verso una concordia internazionale. Cioè, io credo che occorra una rivoluzione degli spiriti. E questi in fondo ce lo dicono, loro così erano rappresentativi di una città, c'erano impiegati, operai, ragazzi, giovanissimi, anziani, ebrei, cristiani, un sacerdote, cioè una rappresentazione quella del dolore, ecco, in questo senso, un dolore però che deve animare verso strascinarci in situazioni diverse, con una conversione della persona umana. Massimo Rendina, lei si sarebbe aspettato da parte del cancelliere tedesco Angela Merkel un accenno durante il discorso ufficiale per la celebrazione dei 50 anni del Trattato di Roma sulla questione delle fosse ardeatine? Sì, io ho aspettato proprio questo e non è venuto, come non è venuto da parte di nessuna delle autorità un ricordo un accenno al fatto che se c'è l'Europa, l'Europa nasce dalla resistenza. Sì, si può invocare sì un'origine cattolica, giudaica, tutto quello che vuoi, cristiana, però è la resistenza che ha fatto l'Europa in due sensi, sia come rimozione della tragedia e quindi la necessità di un'unione che evitasse il ripetersi di guerre sino alla immemorabili sul piano storico soprattutto tra la Germania e la Francia, e poi perché ci fosse anche questa solidarietà tra i popoli che deriva da una guerra di liberazione combattuta da molti popoli, molte etnie, molte nazioni. In Italia nella resistenza c'erano nella resistenza italiana 5.000 russi, per esempio, parte l'esercito alleato che è quello che ha realmente portato in forma definitiva la liberazione del nostro paese. Insomma, sì, i partigiani hanno aiutato, hanno avuto una parte importante, ma dobbiamo gratitudine agli alleati di questo. Dimenticare la storia mette le basi per un ripresentarsi dei suoi errori. Sono passati 63 anni, ma ancora la cronaca rimanda a tragiche coincidenze. Sabato 24 febbraio, ore 4, Lucca. Ambulanza, sirene spiegate. Emanuele, 27 anni, si sveglia mentre gli suturano le ferite. Era arrivato all'ospedale svenuto e con un trauma cranico, la frattura scomposta del malleolo, ferite, rattaglio sul volto, sulla nuca, sulla coscia sinistra e sul gluteo destro, nonché lividi ed escoriazioni. Emanuele è l'ennesima vittima, a Lucca, di un violento squadrismo che sempre più insistentemente minaccia giovani colpevoli solamente di non condividere gli ideali fascisti. Emanuele stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Tre auto lo affiancano e lo inseguono fino a farlo sbandare, mandarlo fuori strada. Verrà poi pestato a sangue. E ancora, per tornare a Roma, venerdì 23 marzo 2007 era prevista l'inaugurazione di un sedicente centro culturale futurista, dietro al quale si nascondono diverse sigle neofasciste della capitale. Questa sede dovrebbe essere aperta nel quartiere di Casal Bertone, nella zona est di Roma. Tutto il quartiere però il 23 marzo si è mobilitato per dire no alla presenza fascista. Sentiamo il discorso in piazza di Luciana Romoli, staffetta partigiana che ricorda la storia antifascista del quartiere e ribadisce il rifiuto di ogni forma di fascismo. Io voglio ricordare alle persone anziane e voglio ricordare ai giovani quello che è stato fatto qui nel nostro quartiere durante l'epoca fascista e durante l'invasione del feroce tedesco. Questo quartiere ha dato tantissimo. In questo quartiere ci abbiamo avuto anche la deportazione degli ebrei. Noi dobbiamo ricordarlo. Non è possibile. Noi non permetteremo mai, mai dobbiamo permettere che i rigurgiti fascisti camminano in questo selciato di Casal Bertone, dove hanno camminato partigiani che sono stati torturati a Via d'Asso e a Via Romagna. Mio zio, De Angelis Libero, andate alla Storta a vedere la lapide insieme a Bruno Buozzi e ad altre decine di persone. Il giorno che sono entrati gli americani si trovavano a Via d'Asso alle torture, l'hanno presi con i camion, torturati come erano, sanguinanti, e l'hanno portati fino alla Storta. Alla Storta l'hanno fatto scendere dai camion, l'hanno prima attaccati ai pali, agli alberi, e poi l'hanno fatti fuori sparandogli. Non possiamo permettere nel modo più assoluto che organizzazioni fasciste siano in questo quartiere che tanto ha dato. Voglio dire a tutti i ragazzi, qui ci sono stati bambini che hanno fatto la resistenza. Il tuo